al campo crederanno gli europei di far ritorno, colti al varco saranno, fido trappello veglia lor passi e ne farà macello. E Clotarco Pavello, oh credi, è sempre misero il traditor. Follie son queste. Io di Clotarco almeno non voglio in aiuto, dunque... Non più Zelmira, or vi saluto.